Ventennio all'estero da minatore, oppure in galleria da scotti mezzo, buon meridionale, se non c'è un attimo di pausa, no? A che fa? Calma, Turchetti e Luci. Non sapete sta cosa? No.